Mix 24, la storia. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di Luigi Calabresi. E sabato 9 maggio 2009 al Quirinale, per la prima volta dopo quasi 40 anni, Gemma Calabresi, vedova del commissario, e Licia Rognini, vedova di Pino Pinelli, si stringono la mano. È il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, una memoria condivisa, un destino incrociato che accomuna le due donne. Licia Rognini è la moglie di Giuseppe Pinelli, anarchico ingiustamente sospettato di essere coinvolto nella strage di Piazza Fontana e precipitato dal quarto piano della questura di Milano il 15 dicembre del 1969. Gemma Capra è la moglie del commissario Calabresi, per anni ingiustamente accusato di essere il responsabile della morte di Pinelli e per questo ucciso il 18 maggio del 72. A volere questo atto di pacificazione è il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Qui si compie un gesto politico e istituzionale. Si rompe il silenzio su una ferita non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all'oblio. Grazie signora Pinelli, grazie per aver accettato lei e le sue figlie di essere oggi con noi. Due vittime, due famiglie straziate dal dolore, due storie tragiche dell'Italia degli anni di piombo. La prima vittima, Luigi Calabresi. Questa è la sua storia. Da Milano, Domenico Alessi. È stato un uomo dell'apparente età di 35 anni a uccidere con tre colpi di pistola sparati alle spalle. Viveva con la moglie e due figli. Fra pochi mesi avrebbe avuto un terzo figlio. La prima mia sensazione, dopo aver saputo che l'avevano ucciso, è stata di sentirmi morire un po' con lui. Mio padre me l'ha lasciato solo. Queste le parole della moglie Gemma Calabresi e di Mario Calabresi. La prima vittima mirata del terrorismo in Italia. Questo è stato Luigi Calabresi, commissario capo di pubblica sicurezza a Milano. Oggetto di una campagna di odio senza precedenti. Un uomo di cui per anni sembrava non si potesse nemmeno più parlare. È stato un funzionario dello Stato e per questo, per i suoi detrattori, per i suoi nemici, un simbolo da abbattere. A soli 34 anni, con due figli piccolissimi, un terzo in arrivo, con due colpi di pistola sparati alle spalle. È stato un eroe del quotidiano in anni che cominciavano a farsi difficilissimi, aspri e violenti. E allora la sua storia è anche la storia della sua morte. Luigi Calabresi comincia a morire in un pomeriggio d'inverno e venerdì 12 dicembre del 69. Dicembre 1969. Milano si sveglia sotto la pioggia. È un venerdì, sono le 16:30. In TV sta per andare in onda la TV dei ragazzi. Si fanno le ultime spese prima di andare a casa e a Milano, come al solito, c'è il mercato degli agricoltori. La Banca Nazionale dell'Agricoltura è una borsa di scambio per allevatori e agricoltori. Per questo, alle 16:30 la sede di Piazza Fontana è ancora aperta. Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. Diciassette morti, 90 feriti e la strage di Piazza Fontana. Quello stesso giorno un'altra bomba viene trovata inesplosa sempre a Milano, a Piazza della Scala, mentre altri due ordigni esplodono a Roma, uno all'Altare della Patria, l'altro alla Banca Nazionale del Lavoro di Via Veneto. Lunedì 15 dicembre, in una Milano attonita e sgomenta, si celebrano i funerali delle vittime. Le indagini intanto puntano con decisione sugli anarchici. L'ufficio politico della questura, di cui fa parte Luigi Calabresi, ferma 240 persone, tra loro Pietro Valpreda e Pino Pinelli. Ma la versione ufficiale, quella della pista anarchica, non convince. Così il questore Marcello Guida rispondeva alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del 13 dicembre del 69. L'ufficio politico della questura, e precisamente il dottor Calabrese, ha fatto stamattina una dichiarazione alla stampa, ha detto che i responsabili andavano cercati tra gli estremisti, ma tra gli estremisti di sinistra. Io non sono in grado di rispondervi per quanto riguarda la comunicazione fattavi da Calabrese, né di smentirla, ma mi pare che sia decisamente da respingere qualunque precisazione di questo genere. La sera del 12 dicembre 1969 Giuseppe Pinelli viene convocato in questura dal commissario Luigi Calabresi. Pino Pinelli, ferroviere, uno dei leader del circolo anarchico milanese Ponte della Ghisolfa, è una vecchia conoscenza del commissario. Già sospettato degli attentati ai treni dell'8 agosto 1969, Pinelli entra in questura per informazioni. Arriva in via Fatebene Fratelli a bordo della sua moto e vi viene trattenuto per 3 giorni. Così la testimonianza dell'anarchico Pietro Valpreda, intervistato da Sergio Zavoli nel 1989. Prendono un sospetto di strage, fermato in un gruppo anarchico, e gli si dice: noi andiamo in macchina, tu seguici col motorino. Quella era strage, quando si è mai visto la polizia che a uno che sospetta di aver ucciso o accoltellato la moglie, gli stetti: noi andiamo in macchina, tu seguici in bicicletta. Ma chi è Pino Pinelli? E che rapporto ha con il commissario Calabresi? Queste le testimonianze di Pietro Valpreda e di Mario, figlio di Luigi Calabresi. Un dato era certo, che Calabresi conosceva me e conosceva meglio Pinelli, in quanto che Pinelli del gruppo anarchico era quello che andava in questura a chiedere i permessi per le affissioni dei manifesti. Pudore a dire che fossero amici, perché erano su sponde diverse, uno era un commissario di polizia, l'altro era un ferroviere anarchico, però non erano uno contro l'altro, probabilmente avevano un rapporto di fiducia reciproca, non so, di stima, tanto che si scambiarono anche dei libri, ma soprattutto per noi a casa nostra non sono mai stati contrapposti. Anarchico che chiede i permessi per la manifestazione è un commissario dell'ufficio politico della Questura di Milano. Quello che stiamo raccontando oggi su Mix 24 è il destino incrociato di Luigi Calabresi e Pino Pinelli, un destino che li vedrà uniti anche nella tragedia per oltre 30 anni. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24, stiamo raccontando la storia di Luigi Calabresi. Subito dopo la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69 viene fermato l'anarchico Giuseppe Pinelli. È la tarda serata del 15 dicembre, Giuseppe Pinelli è ormai in questura da oltre 72 ore, viene sottoposto a un interrogatorio proprio nell'ufficio di Luigi Calabresi. Poi però, in un attimo, la tragedia. Pinelli è precipitato nel vuoto, è caduto su questa aiuola. Lo hanno trasportato all'ospedale, ma le cure dei sanitari sono risultate vane. Lascia la moglie e 2 figlie. Era frenatore delle Ferrovie dello Stato, nella stazione di Porta Garibaldi, aveva 41 anni. Io quella notte ricevetti diverse telefonate, no? O perlomeno ne feci, quindi mi telefonarono dalla questura verso le 9:30, 10. Ho chiesto notizie di Pino, mi hanno detto che era in questura dove stava molto bene. Con chi ha parlato? Col commissario Calabresi. Così racconta Licia Pinelli, vedova di Pinelli, intervistata nel 1977 da Corrado Staiano. Il fermo di Pinelli e degli altri anarchici non è stato formalmente comunicato alla procura. I vertici della questura danno versioni frettolose e poco credibili. Così la ricostruzione di Mario, figlio di Luigi Calabresi. E poi c'è la frase scellerata che il questore, l'allora questore di Milano, dice pochi decine di minuti dopo la morte di Giuseppe Pinelli, che dice: Pinelli si è suicidato cadendo dalla finestra dell'ufficio del commissario Calabresi. Durante una breve sosta dell'interrogatorio si è gettato nel vuoto da una finestra rimasta socchiusa, nonostante il tentativo di trattenerlo da parte del personale di polizia presente in quel momento, un ufficiale dei carabinieri e quattro sottufficiali di pubblica sicurezza. Si parla di suicidio. Naturalmente la reazione all'idea che si sia suicidato è negativa, contraria, viene vissuta come una provocazione, ma però che cosa resta? L'ufficio del commissario Calabresi, e quindi è come il timbro che viene lasciato su mio padre e che non lo lascerà più. La morte di Calabresi comincia qualche giorno dopo la morte di Pinelli, con la campagna contro il commissario iniziata da Lotta Continua. Il giornale sostiene che Pinelli era stato scaraventato dalla finestra della questura da Calabresi e quindi Calabresi è l'assassino di Pinelli. Questa è la testimonianza dell'anarchico Pietro Valpreda e di Licia Pinelli, vedova di Giuseppe Pinelli. Io che conoscevo Pinelli so che non avrebbe, si sarebbe mai suicidato, aveva due bambine che adorava, Silvia era Claudia, aveva una moglie, eccetera, aveva tutta la sua attività politica, gli amici, eccetera. E questo è quanto è successo lì, è qualcosa che anche a distanza di anni mi è incomprensibile, veramente. Noi siamo in una democrazia e in uno stato di diritto. La verità è una sola, la verità, e la verità deve venire fuori. Quei tre giorni, dal 12 al 15 dicembre, dalla strage di Piazza Fontana alla morte di Pinelli, segnano per sempre il destino di Luigi Calabresi. Ma chi era Calabresi? Quanto è lontana la sua verità di uomo dall'immagine di poliziotto torturatore che gli è stata costruita addosso? Luigi Calabresi nasce a Roma il 14 novembre 1937. È il terzo figlio dopo Wanda e Adele. Il padre Paride ha un negozio di vini nella zona di Santa Maria Maggiore, il cuore della capitale. La madre Amalia fa la casalinga, così racconta il suo padre spirituale Don Ennio Innocenti. La mamma era pietissima, vollero battezzarlo lo stesso giorno della sua nascita. Calabresi frequenta le elementari all'Angelo Mai e il liceo San Leone Magno. Si laurea in giurisprudenza con una tesi sulla mafia. In quegli anni incontra padre Virginio Rotondi, gesuita, fondatore del movimento religioso Oasi. Così la testimonianza di Don Ennio Innocenti. Il carattere suo era un carattere apertissimo, cordialissimo, innamorava tutti, ragazzi e ragazze. Dopo la laurea, Calabresi decide di entrare in polizia e nel 1965 vince il concorso per vice commissario di pubblica sicurezza. Viene trasferito a Milano alla caserma di Corso Monforte e in seguito passa alla questura centrale come vice dirigente dell'ufficio politico, l'attuale Digos. Questo è il ricordo della moglie di Luigi Calabresi, Gemma Capra. Quando conosco mio marito Luigi Calabresi, che poi chiamerò Gigi perché in casa noi l'abbiamo sempre chiamato Gigi, a una festa di Capodanno da comuni amici. Dopo un anno e qualche mese da quel giorno, io a soli 22 anni sposo Luigi Calabresi. Qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. Mi sono sposata innamorata, era il matrimonio un po' da favola, ero felice, pensavo che mio marito sarebbe stato per sempre. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai hai detto è tutto quel che hai di me. Una felicità troppo breve, una favola che non contempla il lieto fine. Entrato in polizia, Calabresi viene subito trasferito a Milano, ma la città del boom industriale si sta facendo sempre più dura e cattiva. Il giovane commissario si trova spesso in prima linea e in mezzo alle manifestazioni e agli scontri. È la fine degli anni Sessanta. Così la testimonianza di Achille Serra, all'epoca funzionario della Questura di Milano e del giornalista Giampaolo Pansa. In quegli anni, quando un giovane funzionario arrivava a Milano, veniva fatto affiancare al funzionario più anziano, quello che aveva un'esperienza maggiore perché potesse rendersi conto. E io fui affiancato a Luigi Calabresi. Furono anni della contestazione giovanile, quella importante, quella del movimento studentesco, di Mario Capanna. Erano i tempi in cui ogni sabato, quanti ce n'erano in quegli anni, si verificava uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine. Erano scontri a suon di bottiglie Molotov, al suon di lacrimogeni. Cominciarono a partire le prime bottiglie Molotov, lui e io eravamo in macchina, io seduto dietro, lo ricordo ancora, mi trovavo in una situazione difficile, nuova per me, mi nascosi dietro il sedile nella macchina, mentre lui usciva impavido e andava incontro ai dimostranti. Pensai che stesse per ordinare la carica? No, era semplicemente per dialogare con questi giovani. Io in quel momento facevo l'inviato della stampa diretta da Alberto Ronchey. Calabresi era un commissario di pubblica sicurezza che si distingueva un po' dagli altri, prima di tutto perché aveva un rapporto molto cordiale con i giornalisti. Non sembrava un commissario di pubblica sicurezza, perché si vedeva che era un uomo colto, che leggeva. Sapevamo che era importante nella sezione in cui lavorava, però sapevamo anche che più importante di lui era il suo capo. Però lui in casa voleva avere un'oasi. E lui era capace di arrivare a casa e mettersi a fare lui la pizza, oppure la torta, faceva benissimo, sapeva cucinare bene da buon romano. E quindi giocava coi bambini. Anche con i bambini proprio neonati, lui leggeva le poesie di Trilussa ai bambini neonati, cantava, e quindi lui riusciva a creare questa serenità in casa. E questa era la sua forza, probabilmente per noi prima di tutto e poi anche per se stesso, per avere un posto dove rifugiarsi. Avete sentito le parole della moglie di Calabresi, Gemma Capra, un poliziotto moderno che in anni spietati cerca sempre il dialogo con i manifestanti, ma Piazza Fontana, come dirà Adriano Sofri, leader storico di Lotta Continua, rappresenta la perdita dell'innocenza. Dopo quella bomba niente sarà più come prima. Adesso è lo Stato che viene considerato il nemico, è lo Stato nell'immaginario dei suoi nemici ha il volto di Luigi Calabresi. Queste le parole della moglie Gemma e del giornalista Giampiero Mughini. Cercavo di capire cosa stesse accadendo e mi sono resa conto che lo Stato che si voleva colpire, tutto quel male che si voleva annientare da parte di questi gruppi, aveva il volto di mio marito. Qual è l'ideologia del tempo, comunque l'ideologia di una larga parte della società e della società culturale del tempo? È che lo Stato con la S maiuscola può essere una macchina assassinante. L'ideologia del tempo dice che lassù al quarto piano della questura di via Fate Bene Fratelli l'anarchico Pinelli è stato battuto, torturato, e che il capo torturatore, come dice il famoso manifesto pubblicato dall'Espresso e che è stato sottoscritto da 800 santoni della cultura italiana, due nomi su tutti, Norberto Bobbio e Umberto Eco, questo ignobile manifesto recita che il capo torturatore è il commissario Luigi Calabresi. Tra questi moltissimi c'ero anch'io, erano 800 persone, i nomi maggiori sono stati spesso ricordati, li ricordo, Bobbio, appunto, Parri, Eco, Einaudi, insomma tutta la cultura italiana e una parte della politica. Dovevo assolutamente chiedere perdono alla famiglia, perché avevo puntato il dito nei confronti di una persona che conoscevo e che sapevo intelligente e non sanguinaria, certo, e che con gli altri ho contribuito a condannare a morte. Così racconta Carlo Ripa di Meana. La cultura si mobilita. Camilla Cederna, che ha proposto la lista degli 800, ha scritto un libro contro Calabresi. Dario Fo porta in scena Morte occidentale di un anarchico, il cui protagonista è il commissario Cavalcioni. Elio Petri gira un'indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Ne è protagonista Gian Maria Volonté e ancora una volta un commissario assassino stranamente somigliante al commissario Luigi Calabresi. Vai dritto! Non puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, Mao, Limpiao. Tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi. Tu non sei un cavallo, tu sei un cittadino democratico. E io ti devo rispettare. Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia? Su Mix 24 stiamo raccontando la storia del commissario Luigi Calabresi. Mix 24, la storia. Stiamo raccontando la storia di Luigi Calabresi, ingiustamente accusato dell'assassinio di Giuseppe Pinelli. È il 1971 e il giornale Lotta Continua scrive: forse abbiamo fatto un errore, siamo stati troppo teneri col commissario aggiunto di pubblica sicurezza Luigi Calabresi. Il suo volto è diventato abituale e conosciuto per i militanti, che hanno imparato a odiarlo. La sua funzione di sicario è stata denunciata alle masse, che hanno incominciato a conoscere i propri nemici di persona, con nome, cognome e indirizzo. E il proletariato ha già emesso la sua sentenza. Calabresi è il responsabile dell'assassinio di Pinelli e Calabresi dovrà pagarla cara. Fu la condanna a morte per Calabresi. La sofferenza di quest'uomo, che non fu ucciso in una triste mattina, ma fu ucciso per anni, ogni giorno. Queste le parole di Achille Serra. Proprio sull'onda della campagna di stampa di Lotta Continua, Calabresi decide di querelare il giornale. Così la ricostruzione del figlio di Luigi Calabresi, Mario. Mio padre venne lasciato solo a difendersi. Venne lasciato solo tanto che il Ministero dell'Interno gli chiese di costituirsi lui personalmente, di querelare lui Lotta Continua chiedendo conto di queste falsità. E mio padre li chiamò in causa. Mia madre fino all'ultimo cercò di dirgli: ma non lo fare, ma non è possibile che tu da solo ti metti a fare questa causa, dovrebbe essere lo Stato a tutelarti. Invece il Ministero gli pagò l'avvocato, ma gli chiese di farlo lui. Lui lo fece e fu un errore perché presto, in pochissimo tempo, il processo si trasformò da un processo in cui lui chiedeva che fossero appurate le calunnie contro di lui, che fossero smontate, in un processo accusatorio contro di lui in cui lui si dovette difendere, un processo che si trasformò in una corrida, perché nei corridoi di Palazzo di Giustizia e nell'aula lo accoglievano con slogan, insulti, fischi e sputi, per cui ben presto diventò qualcos'altro. l'ufficio della questura decide di non fargli fare più servizi esterni. Si comincia a capire il pericolo, come raccontano Don Ennio Innocenti e Giulio Andreotti. Capii che lo avrebbero ammazzato. Allora andai da Andreotti e gli dissi: questo lo ammazzano. Certamente c'erano stati fenomeni di violenza, fenomeni di intimazioni, il clima era anche un clima piuttosto teso, però insomma, arrivare alla uccisione insomma, era un fatto che non era nei disegni, nei timori. Andreotti disse: si potrebbe promuoverlo e trasferirlo, ma lui non accettò. Io lo chiamai, glielo dissi e lui disse: lo Stato si può permettere di fuggire, ma io no, perché domani potrebbero dire ai miei ragazzi: tuo padre è fuggito. Il clima di odio e persecuzione contro il commissario si fa sempre più pesante. Il 24 giugno del 71 la vedova di Giuseppe Pinelli denuncia il commissario Calabresi e altre 6 persone della morte di suo marito. A indagare su di lui e i suoi colleghi è il magistrato Gerardo D'Ambrosio. Così dice Pinelli e poi lo stesso D'Ambrosio. Quando il processo Lotta Continua Calabresi è stato... Sì, è stato fatto saltare per la ricusazione del giudice Biotti, allora ho denunciato tutti i presenti nella stanza per omicidio volontario. Quando ci fu questa denuncia, nacque poi il processo per omicidio volontario, credo che fosse la prima volta che un gruppo di poliziotti ricevette da me l'avviso di garanzia. Il mio dovere era quello di cercare di accertare la verità nella maniera migliore possibile. E nel momento in cui lui era precipitato dalla finestra, Calabresi non era nella stanza perché era andato col verbale oramai già terminato dal commissario capo dell'ufficio. Io so solo questo, che fino là dentro è entrato vivo ed è uscito morto. Che poi l'interrogatorio fosse stato abbastanza pressante nei confronti di Pinelli è chiaro, anche questo, una certa situazione di disagio Pinelli si trovasse, ma non tale da indurlo al suicidio. Esumammo il cadavere e facemmo fare costruire un manichino. L'ipotesi che feci io è che avesse perso l'equilibrio con l'impatto con l'aria improvviso e col fresco e che quindi, cercando di appoggiarsi, si è piegato sulla ringhiera e ha fatto quel movimento di rotazione che coincideva perfettamente con i rami rotti che figuravano. Ed ecco per quale ragione io dissi che era stato un malore. Milano, 25 ottobre 1975. Il giudice Gerardo D'Ambrosio emette la sua sentenza. Ipotesi di suicidio, possibile ma non verosimile. Ipotesi di malore, verosimile. Ipotesi di lancio volontario di corpo inanimato, assolutamente inverosimile. Calabresi e i suoi colleghi vengono prosciolti perché il fatto non sussiste. Così le testimonianze del giornalista Giampaolo Panza e del funzionario della questura di Milano, Raffaele Valentini. Ecco, quelle finestre mi avevano sempre colpito perché avevano una ringhiera, una barra molto bassa. Adesso l'inferriata è stata rialzata per motivi di sicurezza, ma prima arrivava poco più di 50 centimetri. Ma Luigi Calabresi non farà in tempo a leggere la sentenza che lo proscioglie definitivamente dalla morte di Pinelli. Quando il giudice D'Ambrosio infatti emette la sua ordinanza, Calabresi è già morto da 3 anni e mezzo. Mercoledì 17 maggio 1972 un killer lo ha freddato sotto casa con 2 colpi di pistola. Come ogni mattina stava andando in questura. Erano circa le 9:20. Calabresi si dirige verso la 500 parcheggiata di fronte alla sua abitazione. Improvvisamente da una 125, ferma poco distante, scende un uomo. Si avvicina alle spalle di Calabresi e coprendosi il volto con un giornale, esplode 3 colpi di pistola. Viveva con la moglie e 2 figli. Fra pochi mesi avrebbe avuto un terzo figlio. E non lo vedrò mai più. Lo uccisero sparandogli alle spalle 2 colpi. Uno nella schiena, il secondo in testa. Stava aprendo la portiera della 500 blu di mia madre con cui andava in ufficio. Era disarmato. Era disarmato per scelta. E lui disse, per 2 motivi. Il primo, che tanto non avranno mai il coraggio di spararmi guardandomi negli occhi. Mi spareranno alle spalle. E il secondo è perché se io per caso mi accorgessi che qualcuno sta per spararmi, non voglio avere la possibilità di sparare per primo, di ammazzare qualcuno. Sento suonare la porta, ho Mario vicino, il piccolo era nel box, e suona la porta e vedo questo signor Federico. Lui mi vede così, ancora che sorrido, di pietra, io me lo vedrò per sempre davanti, bianco, non fa un sorriso e mi abbraccia. Allora io in quel momento ho capito tutto. Che il commissario al quale avevano sparato era mio marito. Il commissario Luigi Calabresi viene soccorso da alcuni passanti e portato urgentemente all'ospedale San Carlo, dove giunge però senza vita. Io ho questo ricordo di mia madre che grida e gira su se stessa e io giro con lei attaccata alla sua gonna. Avete sentito la ricostruzione di quel giorno della moglie e del figlio di Luigi Calabresi? Quella del commissario è un omicidio che sgomenta Milano e l'Italia intera. Le polemiche, le contestazioni, le proteste infatti non erano mai arrivate fino a quel momento all'omicidio premeditato. È un salto di qualità, inatteso ma forse non del tutto imprevedibile. Così la ricostruzione di Carlo De Stefano della Questura di Milano e poi di Achille Serra. Calabresi certamente è stata la prima vittima mirata di questo clima d'odio che si era instaurato a Milano, ma non solo a Milano. Ci chiedevamo però noi giovani funzionari perché non ci fosse una risposta chiara, forte, dei nostri vertici, del Ministero. Perché lo Stato non gli impose una scorta? Perché lo Stato allora non gli ordinò il trasferimento, indipendentemente dalla sua volontà. Arrivo all'obitorio verso 1:30 ed è una visita terribile. Quando entro vedo mio marito pallidissimo, con dei lividi sulla fronte, però mio marito non era più mio, perché c'erano già i corazzieri del Presidente della Repubblica, c'erano già alcuni corone di fiori, c'erano le persone della questura, mandate dallo Stato, e quindi mio marito non era più mio. Il 18 maggio 1972, il giorno dopo la sua morte, il giornale Lotta Continua definisce l'omicidio di Calabresi un atto in cui gli sfruttati riconoscono la propria volontà di giustizia. Così la testimonianza di Gemma Capra, vedova di Luigi Calabresi, e quella di Raffaele Valentini. Io un odio così non l'ho mai provato, perché io penso che anche se viene uccisa una persona che tu consideri nemico, non si può ineggiare, non si può brindare. Davanti alla morte si può solo tacere. Da Milano, ma io credo anche da varie parti d'Italia, siano venuti al funerale di mio marito, e questo mi ha confermato il mio pensiero che la maggioranza è silenziosa. Ma il giorno del funerale fu un giorno che noi vivemmo con la morte nel cuore proprio, perché capivamo quello che chi accompagnavamo, che cosa aveva fatto, chi era, come si era comportato sempre, e nello stesso tempo sentire nell'aria questo astio che c'era nei suoi confronti. Un'esperienza dolorosissima, dura, difficile, quel funerale con il mio bambino in grembo. Difatti io dico sempre a lui, tu c'eri al funerale di papà, perché la sua tristezza enorme è quella di non averlo mai conosciuto. Allora io gli dico, però tu c'eri insieme a me, perché naturalmente questa gravidanza mi ha dato una forza enorme. Devo molto a questo bambino. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24, l'omicidio di Calabresi che raccontiamo un dolore senza fine per una giovane donna di 25 anni rimasta a tirar su da sola due figli piccoli e uno che deve ancora nascere. Ma per Luigi Calabresi non c'è stata pace da vivo e non ce n'è nemmeno da morto. L'odio continua a perseguitarlo anche dopo il suo assassinio. 17 maggio 1973. Ad un anno dall'assassinio di Luigi Calabresi, alla questura centrale di Milano in via Fate Bene Fratelli viene inaugurato un busto dedicato al commissario. Così il ricordo del funzionario di polizia e amico di Calabresi, Raffaele Valentini. Seguivo la cerimonia dall'alto. Decisi di scendere e mi avvicinai dove erano le autorità tutte, sotto l'androne della questura, quando all'improvviso si sentì questa deflagrazione fortissima. All'esterno del palazzo una bomba provoca una strage, così il ricordo di Achille Serra. Posso ricordare soltanto la grande confusione e gli strilli di chi era ferito, le ambulanze che non riuscivano ad arrivare perché via Fate Bene Fratelli non è molto grande, la rabbia della gente. Milano non ne poteva più di queste cose. L'attentatore, subito fermato, si chiama Gianfranco Bertoli, un sedicente anarchico individualista che dichiara intenti confusi e contraddittori. Anche da morto, quello di Luigi Calabresi è un nome da non pronunciare. Questi ricordi del figlio Mario e della moglie Gemma. Una cosa difficile è stato crescere con questo cognome e crescere senza un padre. Se tu sei prigioniero dell'odio, non riesci a gioire delle scoperte dei tuoi bambini che crescono, non riesci a gioire dei loro primi passi, delle loro parole, non riesci più a guardare il cielo stellato o di quel colore è la mattina, e non riesci più a sentire quel profumo della terra dopo il temporale. E quindi è una tragedia in più. L'odio, secondo me, aggiunge un peso, una disperazione a tutto quello che già hai sulle spalle. Chi ha ucciso Luigi Calabresi? Chi ha ordinato il suo omicidio? E chi è stato ad eseguirlo materialmente? Per anni le indagini brancolano nel buio. Si pensa anche a una pista neofascista, oltre che naturalmente alla pista anarchica. Poi il colpo di scena. 16 anni dopo la morte di Calabresi, nel luglio dell'88, un ex militante di Lotta Continua, Leonardo Marino, si autoaccusa di quell'omicidio. Ad uccidere Calabresi, secondo il suo racconto, sono stati lo stesso Marino e Ovidio Bonpressi, su mandato di Giorgio Pietro Stefani e Adriano Sofri. Luglio 1988. Leonardo Marino, ex militante di Lotta Continua, venditore ambulante a Bocca di Magra, racconta ai carabinieri di aver partecipato all'omicidio Calabresi. Così racconta Aldo Cazzullo. Ha un profondo rancore nei confronti di Adriano Sofri e di quelli che, come lui racconta, venivano fuori dai cancelli della Fiat a cercare ad aizzarci a fare la rivoluzione. Poi, finita la stagione, ci hanno detto che la rivoluzione non si faceva più, hanno lasciato noi operai soli di fronte ad anni molto duri, ad anni di licenziamenti, chi è finito dal terrorismo, chi nella droga, chi ha perso il posto di lavoro. Questo è il rancore esistenziale di Marino, che si rivolge in particolare nei confronti di Sofri. Leonardo Marino dichiara che nell'autunno del 1971 Giorgio Pietro Stefani, uno dei leader di Lotta Continua, gli avrebbe comunicato che l'esecutivo politico dell'organizzazione aveva deciso di uccidere il commissario Calabresi. Della preparazione all'attentato si sarebbero occupati i militanti di Milano. A Marino, Pietro Stefani chiede di guidare la vettura del comando. Perplesso, Leonardo Marino vuole una conferma dell'operazione da Adriano Sofri, leader indiscusso di Lotta Continua. Sabato 13 maggio 1972, a Pisa, dopo un comizio, Sofri avrebbe confermato a Marino la necessità dell'omicidio. Lo stesso Marino si reca a Milano, dove ruba l'automobile usata dal comando e dove la mattina del 17 maggio 1972 partecipa all'omicidio di Luigi Calabresi con Ovidio Bonpressi. Secondo Marino è lui, Bonpressi, l'esecutore materiale dell'omicidio del commissario. Ma sulla confessione di Leonardo Marino, a 16 anni di distanza dall'omicidio Calabresi, esistono interrogativi e incertezze. Così racconta il testimone Dante Tacola e poi lo stesso Leonardo Marino. Un uomo così tranquillo, che però era povero, non avevano proprio niente, perché viveva soltanto per quei 3 soldi che gli dava questo qui, dove faceva il giardiniere, e poi sua moglie che faceva le carte, faceva la chiromante. Dopo che è successo il fatto di Sofri, di Calabresi, lì, lui, come è ritornato, lui si è comprato il camper nuovo, l'appartamento a Sarzana, e senz'altro gli sono arrivati i soldi da qualche parte. Io posso dimostrare che tutto quello che ho l'ho comprato con il mio lavoro. Posso portare tutte le cambiali che ho pagato in questi anni per comprarmi il furgone. Posso dimostrare che sto ancora pagando il mutuo della casa. Ce l'ho ancora per più di 10 anni, io questo posso dimostrarlo. Loro che dicono queste cose dimostrano che invece io ho preso dei soldi. Quella del processo per l'omicidio Calabresi è una storia lunga e complessa, condanne, assoluzioni, annullamenti dei processi fino alla sentenza definitiva da parte della Cassazione, un processo che ha diviso l'Italia tra interrogativi e polemiche. Giovedì 28 luglio 1988, a 16 anni dall'omicidio Calabresi e a 12 dallo scioglimento di Lotta Continua, Adriano Sofri, Pietro Stefani e Bonpressi vengono arrestati. Così il ricordo di Mario, figlio di Luigi Calabresi. Di colpo cambia tutto, ci troviamo sbalzati dentro un'aula di tribunale dove staremo anni a seguire dei processi immensi. E mia madre ce lo disse chiaro la mattina, prima dell'inizio del processo. Dovevamo andare alla prima udienza e lei ci disse: ricordatevi una cosa, noi andiamo e ascolteremo e accetteremo tutte le sentenze, se saranno di assoluzione o di colpevolezza. È l'inizio di un lungo iter processuale. 1990, processo di primo grado della Corte di Assise di Milano, condanna Sofri, Pietro Stefani e Bonpressi a 22 anni di reclusione, 11 anni invece per Leonardo Marino. 1991, primo processo di appello, condanne confermate. 1993, secondo processo di appello, tutti gli imputati assolti, compreso Marino. 1994, la prima sezione della Corte di Cassazione annulla l'assoluzione e ordina un nuovo processo. 1995, terzo processo di appello, gli imputati sono nuovamente condannati a 22 anni. Per Leonardo Marino il reato viene dichiarato prescritto. 1997, la quinta sezione della Corte di Cassazione conferma la condanna di Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani. Dopo 25 anni dal delitto, 9 anni dal pentimento di Marino e 7 diversi gradi di processo, la condanna è definitiva. Una storia giudiziaria controversa e dolorosa che ha creato fratture all'interno dello stesso gruppo degli uomini che un tempo volevano fare la rivoluzione. Mia madre dice con una battuta, che poi non è tanto una battuta perché è amara ogni tanto, che al conto finale della sua vita vanno tolti anche gli anni dei processi. 9 anni di processi, molte, tante, troppe polemiche, ma questa è la storia del commissario Calabresi, una storia sulla quale finalmente, dopo 32 anni dall'omicidio, si può girare pagina. E il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, a impegnarsi in prima persona perché venga resa giustizia al nome e alla memoria di Luigi Calabresi. È il 14 maggio del 2004, così la testimonianza di Ciampi e Mario Calabresi. Io ho preso l'iniziativa di dare la medaglia d'oro a tutti i servitori dello Stato che nei terribili anni 70 erano caduti vittime di attentati vari e che erano stati in qualche maniera, non dico dimenticati, ma messi da parte. La cosa fu resa complessa perché malaguratamente caddi, la mattina c'era la cerimonia e allora mi chiesero chi delegavo a consegnare le medaglie e io dissi no, le do io, quindi un po' malcerto con un braccio al collo ricevetti i familiari di queste vittime del terrorismo e consegnare loro la medaglia, fra queste appunto la signora Gemma Calabresi accompagnata dai figli. Però quel giorno il gesto di Ciampi e la frase che disse a mia madre, signora, visto, abbiamo ritrovato la memoria, è stato un momento che ha fatto la differenza. Io pensavo che questi gesti contassero poco, ne ho sempre diffidato, pensavo che la sostanza è un'altra cosa. Ho capito però che se la sostanza non è accompagnata anche da gesti formali, rischia di non esserci, perché non trova contenitori, non trova luoghi in cui agganciarsi. E quello fu un momento davvero importante. Beh, questo per me è importante, non solamente per un doveroso riconoscimento ai servitori dello Stato, appunto, che hanno pagato con la vita la loro fedeltà alle istituzioni, ma anche come insegnamento. Perché mantenere la memoria è il maggiore degli insegnamenti che noi dobbiamo dare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questo è fondamentale. Il tributo a Calabresi è un omaggio non solo alla sua limpida quotidianità di servitore dello Stato, ma anche alla eredità morale e umana che ha lasciato a quanti hanno a cuore l'integrità delle istituzioni e del vivere civile. Dal Quirinale, 13 maggio 2008. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.